6 C. Ascolta e rispondi. A chi scriverai? Scriverò a Stefano. Che cosa metterai? Metterò un vestito rosso. Quando correrai? Correrò dopo cena. A che ora smetterai? Smetterò alle 8. Che cosa venderai? Venderò la moto.